io che sono galletto, l'ho fatto nel letto, l'ho fatto nel letto. Carletto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta per fare un dispetto, che bello scherzetto per mamma e papà. E io sono ancora Carletto, continuo a farla nel letto, continuo a farla nel letto. Comincia a venirmi un sospetto di avere un difetto legato all'età. Chiedo asilo. Saints children with a rose, in and out of the garden he goes. Country garden in the wind and the rain, wherever he goes the people all complain. Senti, questo è Jerry Garcia dei Grateful Dead, K. Questo sono io che faccio. Ah, ok. Comunque, Jerry Garcia è un dead. Grateful Dead. Non so quanto grateful, perché dead sicuramente. Ok. Dead. Cominciamo questa giornata di Santo Stefano con una canzone all'uopo, Saint Stephen, appunto, un classico dei Grateful Dead. Oh, no? Che bella atmosfera hippie. California, sun. Che vuol dire? Sole. Sole. Highways. Autostrade. Bravo. Sì, qui c'è un freddo che t'ammazza. Ci voleva un po' di suono caldo e appassionato dei Grateful Dead. E poi Santo Stefano, che santo è? Cioè, è famoso solo perché viene il 26 dicembre, dopo Natale. Sì. E si dice sì. Dura da Natale a Santo Stefano. Tutto lì. Come? I regali, quelli che si spaccano è vero, subito. È vero. È un regalo che dura da Natale a Santo Stefano, no? Vabbè, si dice. Ma lo mettono lì, perché è una specie di cuscinetto Santo Stefano, per non far tornare la gente. Certo, subito, perché se no, subito dopo Natale andare a lavorare non renderebbe niente. Ma adesso cosa c'è? Pronto? Ho capito, scusateci, rettifichiamo, scusate ancora. Ma chi era adesso? Il Vaticano? No, stavolta era un chirurgo che diceva che lui, il suo staff, eccetera, stanno per entrare in sala operatoria e che loro lavorano a Santo Stefano e che quindi dovremmo moderare le parole, parlare di vacanze, feste, cose del genere in queste giornate, certo. Non è sempre facciamo ammenda, Drago, perché è importante che il chirurgo e il suo staff non si innervosiscano prima di entrare in sala certo, operatoria, perché no, perché se entrano nervosi in sala operatoria bisturi bisturi, prenditelo tu il bisturi, la brutta testa di c***o, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ti spacco la testa. Te lo metto. E ora, bambini, ricreazione. Santo Stefano, proteggici tu. Qui è un maggiore, Carlo, nessuna nota. Vabbè, ma non è in maggiore. Queste canzoni dei santi sono tutte in minore. Qua minore. Ma non sei abbastanza popolare. Sei pop, ma non sei popolare. Bambino Alberto, invece. Ma con chi state parlando? Tu che sei qui anche a Santo Stefano, cosa ci fai? Pensavamo di essere da soli qui, no? Beh, i miei genitori mi hanno scaricato qui. Loro sono andati in Toscana. In un agriturismo, no? E tu perché sei rimasto qua? Da solo. Sì, non sono andati da soli, però adesso fra due giorni vengono, mi prendono e mi portano in montagna, no? Ti farà bene perché hai la voce un po' strana. Cosa ti succede? Hai la voce. È arrocchito un po'. Sembra un po' un vecchio. Ma vecchio, ma sarà un raffreddore. Non vuol dire un vecchio, sono un bambino. Avrò la voce, sarò costipato, no? Sì, vabbè. Però, voglio dire. Ma ti farà bene, l'area di montagna gli farà bene. Ho capito, ma adesso è lasciato qui da solo. Voglio dire, ma ieri però non c'eri qua, non ti abbiamo visto. No, ieri ero da mia zia. Certo. Come ogni Natale. Certo, la zia Natale, no? Per forza. E come ogni Natale tutti a letto alle 8, no? Ecco, alle 8. Anche quest'anno il copione è stato rispettato. Non è cambiato rispetto agli altri anni, insomma. Eh no, perché anche la tristezza che avvolge casa di mia zia, no? Sì. Per via di Luca, no? Il mio cuginetto. Ah, perché? È che è un bambino un po' così, un po' infelice, non so come dire. Ho capito, vabbè, però i regali comunque li hai ricevuti, quindi voglio dire, la festa di Natale è stata bella lo stesso. Sì, sì, i regali alle 7, dopo cena, no? Sì. Perché la mia zia si mangia alle 6:30, Sempre, anche a Natale. In Svizzera si mangia presto. Sì, anche in Italia certe famiglie amano mangiare presto. 6:30. Sì, ho capito, ma per me alle 6:30 è una follia. Vabbè, insomma, follia. Comunque hai mangiato e poi regali. Mangiato, poi... a un certo punto si è apparso, si è materializzato. Sì. Mio zio Remo vestito da Babbo Natale. Ma no, ma vabbè. Verso le 7:15. Io sto mangiando un formaggino per fare un ritocchino. Che allegria. Però scusa, ogni volta sta storia dello zio Remo. Cioè, perché? Non era tuo zio Remo vestito da Babbo Natale. No, no. Era Babbo Natale. Abbi pazienza, bambino. Ancora questa favola. Era favola. Perché allora, lui era Babbo Natale. Sì. Voi mi date retta? Cosa? Allora, ogni anno a casa di mia zia arriva questo Babbo Natale pieno di nei, no? Che è uguale a mio zio Remo, no? Perché anche lui è pieno di nei. Anche tu, ma sei devastato dai nei, capisci? Scusa. In faccia, dappertutto. È peggio di Bruno Vespa, capisci? Quello lì della televisione. Anche Bruno Vespa gli ricrescono dopo che se li fa togliere. Babbo Natale, c'è la barba, anche il cappello. Come li vedi i nei? Vabbè, comunque. Li vedi perché anche se ha la barba bianca, no? Sì. Finta, posticcia, i nei spuntano fuori, orrendi, capisci? Cioè, orrendi. Sì. È uno spettacolo disgustoso. Occhieggia la barba. Cambiamo argomento e parliamo dei regali che tuo zio, cioè Babbo Natale, ti ha portato, che insomma ti ha reso felice, insomma. A me niente, non mi ha portato niente. Ma come niente? Ma scusa, ma no, è impossibile. Fammici pensare, va. C'è stato un disguido, no? Un disguido. Come sempre, c'è sempre qualcosa ma che non va. Infatti mi era già, anche era già successo qualche tempo fa, lo stesso disguido, allora, no? Stavolta ho cercato di fare il furbo, no? Capisci? E la letterina, anzi la letterona, il plico, con tutte le mie richieste, l'ho mandata all'insaputa di mamma e papà, no? All'insaputa, vabbè. Noi ti avevamo sì, anche detto di non fare. Sì, perché avevo io una mia strategia per capire. Però ecco, mi sembra che gli avevamo detto non fare così perché può anche andare a finire male. Ma scusate, allora adesso ho capito perché vi dicevate quelle cose lì. Cioè voi me l'avete sconsigliato, però potevate dirmelo prima, no? Cioè, se si trattava del pericolo di non ricevere più regali, lo dicevate subito. Ma vabbè, sì, ma tuo zio Babbo Natale non poteva portarti una sorpresa, scusa. Mancanza, a manque d'autre. No, no, beh, mio zio, in famiglia, tanto per farti capire, è chiamato Precisetti, no? Suo soprannome. Ah, capito. Quindi lui agisce solo dopo aver letto un ordine scritto o qualcosa era già stato programmato. Ho capito, ma quello era tuo zio Precisetti. Invece esatto, è Babbo Natale che non è tuo zio, non poteva è anche non essere Precisetti. Ancora, finlandese. Vabbè, comunque. Però a Santo Stefano potevi anche stare da tua zia, perché sei qui, non ho capito. E no, lo dice a me. E loro non mi volevano. Ma non chi? Mi dovevano tra i piedi. Tua zia. Che disturbo. Ma cosa disturbi? Ma cosa hai fatto? Siccome io gioco a YouTube, no? Con YouTube, con Luca, no? Gioca con mio cuginetto. Sì. E i miei zii non piacciono. Non piace. Però hanno un po' ragione, perché insomma, okay, su YouTube si vedono anche dei brutti cosa dire, filmati. Gioco a YouTube. Non so, si guardano i filmati. Se gioco, si vede, no? Cioè, si vabbè, interagisce, giocare. Vabbè, comunque. Sì, però è un Natale tristissimo. Ma sì, un po' Luca, sì, che poverino è già triste di suo. Vabbè, giocare a YouTube. Vabbè, è sempre meglio che stare qua, qua da solo. Adesso ho capito, ma adesso sei qua proprio solo, soletto, non ho capito. C'è qualcun altro? Sì, ci sono tutti i figli del sottoproletariato, no? Capisci? Ma che parole difficili, marxiste. Cos'è il sottoproletariato? Spiega. Non lo so, me l'hanno detto parole. I genitori. Infatti. Stare attento che i bambini poverini sono figli del sottoproletariato. E tu sei lì con loro. E c'era Ahmed. Ahmed. Okay. Juanito. Sì. Yan Cheng. Yan Cheng. Boris, Vlad. Sì. Butu. Ma cos'è l'orchestra di Corso Vittorio? E che cosa avete fatto fino adesso, poveri bambini, in Butu, Kranz e compagnia bella? Kranz, e beh, già che eravamo qua, cosa fai? Ci sono le aule del gioco, sono chiuse, c'è aperta solo la sala d'aspetto. Quindi? E ci siamo misurati il pisello. Ah, che bello, bravi. Ma siamo maschette, cosa vuoi che facciamo? Sì, vabbè, giusto, dai. Però non avete meglio c'è altro da fare, voglio dire. Tanto vince sempre in Butu, fanno sta gara. C'è in Butu, quando c'è allora, lui non c'è nessuna gara, capito? Finisce. A suo tempore, sì, ve l'avevo già detto, no? Sì. Quindi sputando, però le dico. E cosa dici? Io ho il righello truccato. Ma no? Sì, capisci? Però scusa, è sempre lo stesso discorso. Che soddisfazione c'è a vincere col righello truccato? Infatti. Anche perché poi lo vedono. Cioè, si vede, è occhio, a occhio. Butu, guarda che è un Butu. Vabbè, ho capito. So che anche voi con sta storia che tutti insegnano che è l'importante partecipare, no? Però c'è cioè, chi ci sono, io preferisco vincere, no? Capisci? Quindi per me l'importante è vincere. Con o senza regalo truccato. Con, perché c'è sempre un Butu. E un Butu. Chiedo asilo! E il portava il scarp del tennis. E il parlava de per lui. Coltivava già da tempo un grande sogno di amore. E il portava il scarp del tennis. E il parlava de per lui. Prima menar via perché l'era un barbù, yeah, yeah, un barbù, yeah. This is for all the baboons in the street of Milano, the night of San Stefano with the Fred Bastia.